Benvenuti, episodio numero 221. Sì. No, oddio, non lo sai neanche tu, che figura. Ah, sì, sì, 121. Sì, sì, sì. Va bene. Allora, intanto cominciamo a ranghi ristretti perché Andrea ha avuto un imprevisto, magari lo ripeschiamo in puntata. Allora, oggi è il 2 dicembre 2025 e abbiamo visto nei mesi scorsi, però abbiamo in canna due film per i prossimi due episodi e uno dei due mi è piaciuto. Attenzione, cioè vuoi tenermi fino all'ultimo indeciso? Allora, diciamo, uno dei due mi è piaciuto abbastanza, l'altro niè. L'altro non ti ha fatto impazzire. Esatto, però non mi è neanche dispiaciuto. Sai che non ho idea, tipo, cioè perché ho in mente ragioni per entrambi perché, per cui non ti sono piaciuti. Però forse quello di oggi è quello più lungo e quindi quello che non ti è piaciuto. Esatto, esattamente. Bravissimo. Ecco qua, ecco qua. Complimenti. Molto allora, semplice. Cominciamo col film. Nye. Allora, no, in realtà è bello il film, però ha qualche problemino per me, per cui mi rende difficile la visione. Ma a parte quello, comunque, cioè, diciamo che abbiamo interrotto la streak, forse. Allora, è il primo film di cui parliamo adesso, quindi oggi, adesso è una battaglia dopo l'altra, One Battle After Another, che è il film che vincerà 1000 Oscar, no, non lo so, però immagino che qualche candidatura popperà fuori, uscito adesso, cioè a settembre in realtà era uscito, che devo dire? Ah, alla regia c'è Paul Thomas Anderson. Io in realtà non ho visto una sega di Paul Thomas Anderson. Sono proprio colpevole, vostro onore. Ah, davvero? Manco il pedroiere? No, non ho visto proprio un cazzo. Infatti, vabbè, mi vergogno un po' perché ho visto la sua lista di film e vabbè. Niente, è andata così. Dopodiché abbiamo come protagonisti Leonardo DiCaprio, che anche lui si beccherà una tonnellata di nomination, Sean Penn, che spero non beccherà una tonnellata di nomination, però purtroppo vabbè, è andata così, Benicio del Toro, Regina Hall, Tiana Taylor e qualcun altro di molto famoso che ho scordato sicuramente. Diciamo che è un film abbastanza grosso, sia come... investimento, non investimento inteso budget, investimento inteso di arte che c'è dietro, e sia penso sia andato anche molto bene, non lo so, non ho guardato, potresti contraddirmi. So che come budget è il film più costoso che ha fatto Paul Thomas Anderson, mi sa anche più, diciamo, d'azione. Sì, sì, oh. È costato tanto, cioè sono tipo 150 milioni, una roba del genere. Sì, penso che come box office pare sia intorno ai 200 milioni per ora, ma probabilmente riuscirà a rientrare nei costi a malapena, mettiamola così, considerando il marketing e tutto. Boh, non lo so, secondo me se va forte agli Oscar poi ne riprende 200 sì. miliardi dietro. Vabbè, comunque. Di cosa parla questo film? Parla di una coppia che fa parte di un gruppo, tra virgolette, diciamo un gruppo rivoluzionario che però è ai limiti del terrorismo, di fatto. No, ho già dato una posizione forte in questo film. Attenzione! No, vabbè, diciamo, un gruppo rivoluzionario, e rivoluzionario inteso proprio che fa anche azioni vere, azioni forti, di nome French 75, e di un terzo protagonista che è il che grado ha lui? Che mi sono scordato. Oh, sergente? Sergente, mi pare. Vabbè, adesso vado a vedere. Intanto, vabbè, e insomma, il personaggio, il colonnello forse inizia come con un grado e poi dopo è un altro. Poi dopo diventa colonnello, sì. Ah, no, è capitano e poi diventa colonnello. Ok, perfetto. E Steven Lockjaw, che è il capo del, diciamo, di una delle strutture di detenzione in California di immigrati. E questi sono, diciamo, i tre protagonisti principali, e poi si unirà un'altra protagonista circa a un quarto del film. La storia è appunto di questi due rivoluzionari che fanno diversi attentati e diversi azioni contro il, diciamo, sono fanno diciamo, azioni contro sia come viene gestita l'immigrazione, quindi sia come vengono smistati gli immigranti, come vengono, sia contro quella che è la politica, il governo, sia contro le banche, perché viene presentato anche diciamo, una sorta di rapina. No, credo fosse proprio una rapina in realtà. E durante queste azioni vanno appunto a rompere i coglioni a questo centro di detenzione capitanato da Lockjaw. E durante questo attentato, la protagonista femminile, di nome, come si chiama lei? Willa? No, non Ah, lei, la dici madre, perfidia. Perfidia, grazie. E Perfidia diciamo che è quella che si occupa di incatenare Lockjaw e picchiarlo, insomma, malmenarlo, e ha però l'effetto contrario, nel senso, malmenandolo lo eccita di brutto, e quindi lui si innamora, si prende questa cotta incredibile per questa attivista. Lui è un personaggio. Loro due, allora, i due attivisti, i due protagonisti, sono uno una sorta di bombarolo di fatto, e sono una coppia, sono innamorati. Lei invece è l'attivista più convinta, a cui piace l'adrenalina, quella un po' più tosta. Il capitano, quello che viene molestato, sempre tra virgolette, perché in realtà non è una molestia vera e propria, è invece anche un attivista di quelli white supremacy, di quelli, insomma, i neri fanno schifo e gli immigrati, insomma, cioè l'unico americano è l'americano bianco biondo nato in America. E l'altra cosa che devo aggiungere è che una dei due attivisti, quindi la protagonista, è afroamericana, è di colore. E quindi c'è questa sorta di relazione unilaterale tra il capitano, che sfocia in un rapporto che capitano costringe, in cui il capitano costringe, tra virgolette, perché anche qua la protagonista a avere un rapporto. Fin dove posso arrivare? Fin dov'è nei trailer? Nei trailer sono anche spezzoni dopo, ma non si capisce bene Ah, che ok. cazzo succede. Vabbè, insomma, la storia è più o meno questa: finché la protagonista non rimane incinta, ha una figlia, ma nonostante essere madre, il suo essere madre continua la sua attività, mentre il suo compagno, quindi il bombarolo, in questo caso interpretato da Leonardo DiCaprio, è quello che è un po' più prudente. Durante una di questi attentati lei viene catturata, e per salvarsi la vita l'unica cosa che fa è un accordo cioè la cosa che fa è un accordo con Lockjaw, quindi quello che si era trombato, per salvarsi la vita denunciando parte dell'organizzazione. Diciamo che qui finisce la prima parte del film, che in realtà, visto che il film dura 2 ore e 40, è una buona mezz'ora del film. E dopodiché il film si sposta nel futuro, in cui la protagonista diventa la figlia Perfidia. Boh, mi fermo qua, tanto in realtà appunto, cioè, la trama è ancora lunga perché è mezz'ora di film, ma dura altre 2 ore. E volevo sentire la tua opinione, poi ti dico perché per me è. Allora, non so se ho scordato qualcosa, sì, sicuramente ho scordato cose. No, vai, vai, non voglio Boh, interrompere la non sabbiosità. so, vogliamo fare prima senza spoiler e poi. Perché questo secondo me è uno di quei film, come dici tu, che verrà inserito in qualche modo negli Oscar. Quindi, cioè, ci Sì. sarà almeno non so, una nomination, se vogliamo essere conservativi. Quindi, boh, la gente magari se lo recupererà a marzo o Allora, aprile. sì, prima di fargli spoiler, diciamo perché secondo noi sarà negli Oscar, così risolviamo. Esatto, facciamo. Allora, sicuramente molto attuale, mettiamola così, per non fare troppi spoiler, Però già hai parlato del campo quello Sì, di per Vietnam. l'immigrazione, sì. È molto attuale anche come proprio poetica, cioè al di là della superficie, diciamo, delle cose che vengono mostrate sullo schermo, è molto attuale come temi, come proprio come mondo interiore. C'è DiCaprio, Sì, quindi no, è vero. diciamo, per quanto insomma, sia un po' comunque attira gente, c'è Sean Penn, ma per me c'è Benicio del Toro, che dobbiamo fare la rubrica personaggi che rubano il film. Cioè, nel senso, ogni film che guardiamo c'è un personaggio o un attore che ruba la scena in ogni Vabbè, scena. in realtà DiCaprio a me è piaciuto abbastanza in questo film, poi magari ne cioè, è abbastanza insignificante Sì, come personaggio, ma come interpretazione è figa. è giusta, però cioè, ogni scena in cui c'è Benicio del Toro mi Ah sono no, se lo mangia, o certo. collassato, oppure cioè, è Sì. fantastico lui. Anche lei, la figlia. Vabbè, parliamo, tanto ormai l'ho spoilerato, c'è questa figlia che è importante nella trama, la figlia di No, DiCaprio, no, ma l'ho già detto, cioè che che... sarà la protagonista della maggior parte del film. Sì, sì, ok, vabbè, ci sta. E l'attrice non è molto brava lei, cioè questo è il suo primo film, ma non sembra, cioè non so se... Boh, per me è stata molto, molto brava. Quindi diciamo, come cast molto buono, come temi molto attuali, come budget molto alto, cioè non lo so, Sì, mi c'è sembra... tutta. Sì. Ci sono tutti i requisiti per essere venduto a degli attori americani. Cioè, scusami, al pubblico americano. Gli Oscar alla fine. Non so se avevi boh, qualche altro punto. No, allora, appunto, cioè, potete guardarlo adesso, se non l'avete ancora visto, e se Che l'avete poi ancora dovete visto, farvi i bravi. rimanete. E l'unica cosa che vi voglio dire è che. Nonostante sia molto lungo, succedono molte cose. Cioè, non è uno di quei film che ha molti tempi morti e quindi l'ho apprezzato abbastanza. Sì, l'altro giorno, ormai settimane fa, parlavamo di Caught Stealing, che non mi ricordo il nome in italiano, e in quel film proprio era pesante, cioè durava 1 ora e mezza, ma sembravano 3 ore quel film, perché erano una sequenza di eventi uno dopo l'altro. Invece qui è molto più, cioè, non è leggero, ma non è neanche cazzo, voglio... Spararmi, scorre molto bene, mi ha tenuto molto concentrato, che è sempre più difficile ultimamente che un film mi tenga proprio incollato allo schermo. Quindi è per questo in realtà che ve lo consiglio, cioè che poi ho detto mi è piaciuto, alla fine vi ho detto che l'avevo anche approvato, perché senza entrare troppo, diciamo, nei dettagli, la storia si evolve in dei modi che da un certo punto di vista sono prevedibili, ma sono comunque ben fatti. Sotto altri punti di vista no, cioè è molto frizzantino. Cioè, c'è alcune scene molto frizzantine, molto, molto carine. Senza dire troppi dettagli, la scena del telefono. C'è una scena dove c'è DiCaprio che deve ricaricare un telefono. Non dico altro, ma a me quella mi ha fatto... Un po' ridere, un po' anche riflettere, diciamo, Ma anche come... le scene, vabbè, poi magari ne parliamo meglio, però c'è anche la scelta dopo della gestione di Lockjaw, cioè quello che lui decide o non decide di fare con la protagonista, non è così scontata, cioè vabbè, ok, non è il solito film in cui dice oh, sì, ti amo tanto, però insomma è un po'. Cioè, ci sono personaggi che rimangono, diciamo coerenti con il loro carattere, altri che si evolvono, però non è così scontato, cioè ti tiene abbastanza su, hai sempre indecisioni di vedere cosa succede perché non è scontato, non ti aspetti tutto. Sì, anche Lockjaw, sì, appunto, non è proprio il solito cattivo da Marvel, non so, solito... Esatto, esattamente. Vabbè, detto questo, noi facciamo un ding e poi Momento siamo liberi. spoiler. Vabbè, ciao. Allora, per chi è rimasto, parliamone. A me piaceva tantissimo la scena di DiCaprio che deve ricaricare il telefono e nello sfondo c'è Benicio del Toro che salva un'intera comunità. Sì. Cioè, io quella scena l'ho adorata, cioè veramente, poi soprattutto perché... E poi alla fine finisce con lui è un eroe di guerra, però non è del Toro, è di DiCaprio. Esatto, cioè mi fa molto ridere perché proprio è quello secondo me il cuore del film di DiCaprio che pensa di essere il protagonista del film, cioè Bob Pat, come si chiama, in quel momento pensa, che ne so, Benicio del Toro sta parlando a me, quando Benicio del Toro dice non guardare il cazzo di telefono, Leonardo DiCaprio pensa che sta parlando a lui, in realtà sta parlando al nipote che deve prendersi cura del negozio. Oppure, cioè, anche quando, non lo so, tipo, quando casca dal tetto, che mi dice il Toro e dice, è fucile? Non so, è... Sì, sì, boh, sì. Tutta quella sequenza è fantastica, poi anche come lo salvano dalla polizia è perfetto, molto, come dire, non so, molto realistico. Non reale, ma comunque molto. Mi è sembrata quasi una scena alla Breaking Bad per quanto era, come dire, per come era girata, per come era metodica quella sequenza. E poi, vabbè, ovviamente, cioè, ogni scena, anche la più semplice, tipo quella nella chiesa con lei legata, è boh, funziona come si dice. Come si dice? Vabbè, come messa in scena, come blocking, come composizione, sì, sì. Come fotografia. A parte il fatto che non si fanno così i test DNA, però... sì. Quello immaginavo, sembrava tipo Clementoni, non so. Cioè, sì, fondamentalmente gli hanno detto, come si fa il test DNA? Ah, un gel di agarosio per vedere se i frammenti sono uguali. Ok, facciamo solo quello, perfetto. È come dire, come si costruisce una macchina? Beh, alla fine la si assembla. Bene, facciamo quello, ok. Beh, quante ne vuoi, Salla? Serviva solo una cosa, cioè, guarda lo schermo apposta. Boh, non so, tu come... Quali sono i tuoi motivi, diciamo, quali sono i tuoi... No, allora, in generale è figo... Allora, come trama è riuscita a tenermi incollato, che appunto non è una cosa così scontata. Ci sono delle robe abbastanza fighe, del tipo, delle robe che mi hanno fatto veramente ridere. Cioè, il fatto che loro si chiamano Christmas Adventurers Club è incredibile. Fantastico, fantastico. Cioè, sembra una roba di... un misto tra... Com'è che si chiamava? Com'è che si chiama il... Oh, Madonna, non mi ricordo più niente. Sembra una roba scritta da Robert Rodriguez, per farti capire, cioè una roba Ah, sì. assurda come cosa. E anche lui come personaggio, Lockjaw, sembra che venga da un altro film, sembra che venga da appunto da un film di Rodriguez, da un film di Tarantino. Sì, In è vero. realtà, pensandoci, cioè non è proprio una persona reale, perché, oddio, non so, magari esiste, però mi sembra abbastanza stereotipato, però è proprio l'archetipo di una persona che è in battaglia con se stesso, perché lui è innamorato di sta tizia, però sta tizia è anche nera e quindi lui ha questo problema. Madonna. No, ho apprezzato molto che appunto lei Villa, cioè che non fosse il solito film in cui lei appunto viene presentata che si addestra, tra virgolette, cioè fa karate, che cazzo fa, judo, non so, però alla fine è una sega, cioè nel senso non è che questo la renderà poi incredibile nelle fasi finali del film, cioè questa è solo la sua caratterizzazione generica, lei in realtà non sa nulla di sopravvivenza, ok? E questo non è così scontato al giorno d'oggi quando un film di questo tipo è qui, in cui il padre in realtà è un agente segreto e lei è stata addestrata da quando era piccola, cioè non c'entra un cazzo questo film. Ah, non è il film quello di Nicolas Cage con Esatto, lui. non è film di Nicolas Cage, cioè Bob, interpretato da Leonardo DiCaprio, è il primo che dice: io sono un tossico, ho rimosso 30 anni della mia vita, non mi ricordo un cazzo, per favore, cioè per favore, sì, per favore, ho bisogno della password. E quindi questa parte sì, mi è piaciuta molto. E il problema è che non lo so, è che non è il, cioè non sono io il target di questo film. Quindi sì, mi è piaciuto, riconosco che sia un film fatto bene, non lo rivedrei perché non è esattamente, cioè non è, mi è piaciuto come possiamo parlare del film dopo, che in realtà mi è piaciuto molto di più, Cioè, non diciamo. è, tu dici, in realtà è quello che dico anch'io, cioè un po' come tutti i film di Paul Thomas Anderson, alcuni più di altri, non è un film che puoi criticare troppo tecnicamente, cioè devi dire ok, è bello, però Esatto. a me spesso i suoi film non piacciono tantissimo, cioè sono sincero, Il Petroliere è fantastico, incredibile, tutto quello che vuoi, anche Punch Drunk Love. E un po' anche The Master, però cioè, la maggior parte delle volte io guardo i suoi film e dico bello, Esatto, basta, sì, cioè nel posso senso non vederlo mai più. l'ho visto, mi è piaciuto la messa in scena, mi è piaciuto come è stato scritto, mi è piaciuta poi la fotografia, poi magari ne parliamo, nonostante abbia la solita malattia che hanno tutti i registi adesso, però non mi ha dato un cazzo, cioè non è Eh no, che... esatto, sì, è tipo Phantom Thread. Allora, questo per me invece, cioè, quello che dici tu lo capisco, perché per me di solito lui è così, tipo Phantom Thread, cose così. Invece questo per me ci ha avuto una marcia in più, perché è una roba un pochino più d'azione e un pochino più divertente e un pochino anche come tema più vicino a me. Cioè, adesso non so se vuoi fare un momento sapio, ma Fai potrei sto momento parlare proprio. mezz'ora, cioè veramente un botto di roba. Lui diciamo che già ha adattato un libro di Pynchon, che è il suo scrittore che ha scritto Vizio di come si chiama? Vizio di forma in italiano. Vabbè, un film che ha fatto lui è un adattamento di un libro di una novella di questo qui, di questo autore. Quest'autore ha scritto un libro che si chiama Vinland, che io ancora non ho letto, Sì, Vinland, sì. Vinland, che parla un po' di rivoluzionari, parla un po' di questo. Lui non l'ha adattato, cioè in realtà questo film non è un adattamento di quel libro, ma comunque un po' di gente in giro ne parla. Cioè quando parlano di sto film dicono ah, pincioniano, come fosse un aggettivo. Non lo so perché non ho letto Pynchon, dovrei leggere un po' di roba sua. Per me l'analisi che ho trovato su internet, oltre alle robe che un po' come si dice, avevo carpato, come si dice, che avevo capito, che avevo Sì, colto, carpito. carpito, carpato, carpale, Carpale, Tinder. tunnel carpale. Tra le cose che avevo afferrato, diciamo, del film. C'era il discorso un po' della situazione attuale negli Stati Uniti, ICE, immigrazione, fare resistenza, Sì, è assurdo come questa. lui appunto decida in base ai suoi interessi, perché in realtà sta roba qua la sta facendo perché interessa a lui, non è una roba che il governo gli ha detto di fare, però si gira un po' la migra dicendo, ah, loro sì, sono dei spacciatori, andatele a picchiare, ah sì, lui è quello, cioè che è abbastanza attuale come Tu roba. dici Lockjaw, Lockjaw, dici? sì. Sì. Ma anche tutta sta roba di Christmas Adventures Club, Sì. super attuale, super, diciamo, parallela a Project 2025. Anche la scena finale che mi ha fatto ridere tantissimo. Per me il film poteva finire lì, quando lui racconta del reverse rape, Ah, cioè dello stupro al contrario, sì. Madonna, stavo ridendo tantissimo. È proprio, cioè, sono proprio discorsi attuali, sono proprio cose, come dire, super, diciamo, fresche, super, che mi stanno molto, diciamo, a cuore, per non dire un'altra cosa, però sotto appunto lo sguardo di una persona che si leva, fondamentalmente si leva dal cazzo, cioè che capisce di non essere il protagonista, che è Bob, quindi mi era abbastanza chiaro che Bob era il regista, cioè che Bob era un po' quello che il regista sta cercando di dire, cioè che i vecchi, diciamo, liberali, diciamo, disillusi, un po' si devono togliere dal cazzo e lasciare lo spazio a Willa, diciamo, a quello che rappresenta Willa, al futuro. E in un certo senso la lettera finale della madre a Willa rappresenta questo, no? Un po' un passaggio di testimone che non è «Ah, ora ti perdono, che te ne sei andata, madre mia!» Per me non era quello, cioè, era semplicemente un «E ora sta a te, cioè, ora vai avanti tu». Anche questa cosa a me è piaciuta. No, anche cioè, perché la madre non esiste più, cioè, non è come... Cioè, non è come uno dei film classici che ci sono adesso a proposito di... Retirement Plan, in cui alla fine lei va a cercare la madre e cominciano esatto. La loro società di rivoluzionari, cioè non c'entra un cazzo. No, infatti la madre è morta, cioè lo dicono più volte e secondo me è così, cioè non è... Ah, sì, anche non fosse irrilevante, cioè non esiste più. Sì, ai sì, fini sì, della cioè... storia non ha senso. Esatto, è morta. Però la cosa appunto che lui ha detto in più interviste e che secondo me si vince al film è che l'unica cosa che rende eroico Bob è il fatto di essere stato un padre per 16 anni, nonostante fosse anche un tossico, vabbè, cioè nel vabbè, senso... Vabbè, sì, anche esserla andata a cercare poi, perché lui poteva anche andarsene sì, certo. A fanculo a un certo punto. Certo. Però appunto a me è piaciuta in un certo senso questa cosa di dire... C'è Leonardo DiCaprio che pensa di essere l'eroe e nello sfondo Benicio del Toro che salva 800 esatto, persone. Sì. E poi quando gli dice, tipo, mi dispiace per quello che ti ho fatto, lui dice, ma sei scemo. Esatto, tu non hai fatto un cazzo. No, la scena quando lo ferma la polizia. Cioè, ancora ogni tanto ci ripenso e rido, il sorrisetto che fa. E dice, che hai bevuto? Un paio di che? Un paio di birre. Minchia. Comunque, vabbè, sì, a parte tutte queste cose che lui, cioè che il regista te le dice nelle interviste, le ha dette, ho trovato questo video di un tizio che fa un collegamento che io non avevo fatto. L'unica cosa che il film dice a livello temporale è 16 anni dopo. Cioè, quando c'è la telecamera che inquadra Willa da bambina, c'è uno stacco molto bello, molto alla Ben Hur, non so, molto, molto classico, no? Sì. Con lei da grande, da 17enne, quello che è. Questa unica nota temporale non ti dice quando sta succedendo il film. Cioè, sta succedendo negli ultimi, 20 anni? 19 anni, non lo so, perché comunque ci sono i telefoni, eccetera. Però non è chiaro. Secondo anche perché video... le macchine sono abbastanza anonime, perché sono macchine non nuove sicuramente, però allo stesso tempo potrebbe essere comunque americani base. Cioè... Sì, cioè potrebbe essere 2015. Ma anche 2020 in realtà, perché magari è in un punto in America in cui hanno quelle macchine, cioè non vuol dire niente. Esatto, e la cosa secondo me che ha indovinato sto tizio con questo video è che 16 anni fa cosa è successo? Obama. Quindi diciamo la cosa che mi ha fatto cambiare un po' percezione di sto film, che un po' me lo ha anche un po', come si dice, fatto scendere, cioè me l'ha riabbassato un pelino, è che in realtà questa disillusione che ha avuto Anderson, che appunto si è messo come Bob nel film, era per Obama. Cioè, era per... Cioè, lui, per lui Obama era la rivoluzione, era perfidia, capito? È stato tradito. Cioè, anche lì, perfidia non è un personaggio che viene rappresentato come la pezza di merda che se ne va, abbandona la figlia. È un po' più grigio, no? Cioè, nel senso... Sì, oddio, in realtà è negativo per l'associazione, non per come madre, sì. Sì, però per il film, cioè per tutti quelli che ne parlano, sì, dicono, traditrice, a ratto. Per il film, secondo me, è un po' meno, cioè, come dire... Sì, come madre non ha un'accezione negativa, è come agente, come membro Sì. della cosa, dell'attivista, del sì, di French qualcosa, French 75. Però è comunque un personaggio che rappresenta il tradimento dei valori rivoluzionari e quindi non lo so, rileggendo il film, anche tipo le battute che fa Bob a un certo punto, dice: certo che mi piacciono le ragazze nere, no? Certo che mi piacciono le ragazze di colore. Non lo so, rivedendolo così come un tradimento, cioè pensando Obama ci ha traditi, boh, un po' mi fa calare le palle, però vabbè, ci sta, cioè comunque è fatto bene anche in quello, perché comunque è una cosa molto sotto trama, sotto tematica. Il film funziona in maniera lineare, funziona come posso dire, come espressione dei tempi attuali e basta, cioè questa sì, è una roba in più. Esatto, è una roba, cioè non dà un riferimento temporale, anche se all'inizio sembra un po' vintage, ma in realtà non sembra vintage per cosa, sembra vintage per quella puttanata di cui parlo dopo. Non dà riferimenti temporali perché è una roba attuale. Cioè è una roba che, non dico succede adesso, così com'è, ma il suo tema sì. Sì. Qual è la cosa che devi dire dopo? Allora, questo regista ha subito la malattia che hanno subito tutti gli altri. Oh no. E quindi invece che girare con la sua bella macchina fotografica, con la sua bella cinepresa, ha deciso di girare a pellicola. Ah, anche lui! E tu dirai, ma Salla, ma qual è la differenza con il 90% dei registi? Che lui ha detto, ma sai cosa? Noi ne prendiamo un'altra che non è ancora stata usata. E quindi lui è andato a riprendersi una pellicola degli anni 50 per girare questo film. Poi sai cosa ha detto? Ha detto, io sono il più hipster degli hipster. Tutti lo fanno 70 mm, ma a me non frega un cazzo, io lo faccio col 35 mm di pellicola. Però orizzontale, così faccio l'IMAX, ma in 35 mm. Non so se, allora, avete presente che come funziona, forse no, i rullini vecchi, no, che c'è la bobina e poi c'è la pellicola che va dall'alto verso il basso e continua ad andare velocemente per registrare tutti i frame. Sì, e diciamo che hai, di solito hai dei buchi di lato, da un lato sì, entrambi. Sì. Che fanno scorrere la pellicola, sì. E poi, tu dici orizzontale nel senso che puoi avere il frame che va da un buco all'altro, oppure lungo la... No, che lui invece che avere il frame in orizzontale, sai che non è quadrato, no? Sì. Lui invece che averlo in quella direzione in orizzontale, cioè in verticale, ce l'ha in orizzontale, quindi è più largo. Ce la fa scorrere in orizzontale. Nel senso che il frame segue la lunghezza della pellicola. Dei puntini, esatto. Non va da un buco all'altro. Il lato lungo dell'immagine è sui puntini perforati, invece che essere il lato corto. Beh, però mi sembra buono. Così è più grande. È più grande, sì. Qual è il problema? Cioè, non è grande come 70 mm, che rimane più grande, però così lui è riuscito a avere una roba più hipster degli hipster, cioè è una gara questa. Ah, tu dici è uno stronzo perché non lo fa nessuno? Ho capito. Cioè, lui non l'ha fatto perché era migliore, lui l'ha fatto perché così. No, per non lo so perché l'unico... la fa, cioè, dovrei essere suo amico e lui che mi dice l'ho fatto per avere il cazzo più lungo degli altri. Però fondamentalmente quello che succede è che lui ha usato un formato vecchio, in disuso, e l'ha ritirato fuori, ma invece che andare ad associarsi agli altri, quindi a usare il solito 70 mm IMAX che ormai usano tutti a pellicola, nonostante sia una tecnologia di 40 anni fa, 50 anni fa, lui ha deciso di farne un'altra diversa. Ok. Cioè, ma qual è come si dice, l'effetto? Perché guardando questo film non ho avuto un... Allora, non l'hai avuto perché questo film è guardabile in IMAX solo in quattro cinema al mondo che hanno il supporto per questa pellicola. Ah, ok. Quindi alla fine, come in tutte queste robe qua, quello che succede è che noi mortali lo guardiamo digitalizzato, quindi non... cioè la differenza magari c'è tra il 70 mm e il 35 mm, nel senso che la profondità di campo cambia, magari, però di fatto a te non cambia una sega. Cioè, se avesse girato in digitale sarebbe stato uguale. In realtà questo film ha una cosa carina, che è la grana, che lui non ha tolto, e infatti è per quello che dico, sembra un po' più vintage. Sì, è vero. E, quindi, allora, questa cosa qua me lo fa salvare, cioè io non è che lo odio come Nolan. Allora, Nolan per me è tutto in un altro girone infernale, lui si salva in un limbo, perché usando questa roba qua, lui ha potuto fare alcune riprese senza avere 25 persone che reggono la telecamera, perché comunque il 35 mm è più leggero e quindi leggero, può essere tenuto quella camera con una Steadicam, detto che comunque in digitale l'avrebbe tenuto con una mano sola e con l'altra giocava a freccette dall'altra parte, però vabbè, diciamo che hanno uno zaino con la pellicola e tutto il resto, però lo può fare a mano, e questo fa sì che alcune delle sue inquadrature non siano molto precise, che in realtà è una cosa positiva, perché forse non essendo del settore non tutti se ne sono ancora accorti, ma la moda si è un po' spostata da quello che è la perfezione digitale a quello che è il man-made. La grana. Sì, esatto, cioè insomma l'imperfezione, lo shaking, la grana appunto, il fatto che non sia proprio centrata ma sia tenuta così. E quindi lui, vabbè, segue un po' la moda in questo, però è una cosa figa perché dà tutta un'altra vibe al film. Quindi per me sì. È un ni. Allora, al di là della cosa hipster, cioè sta roba di poter girare, tipo appunto la scena quella nella stazione di polizia, di poter girare con più facilità è una cosa in più rispetto a Nolan, che invece deve inventarsi degli accrocchi assurdi per infilare le telecamere negli aerei, eccetera. Esatto, per quello per me è comunque salvato, però... Però ti rende, cioè per me funziona anche al contrario, cioè ti rende anche più... Perché Paul Thomas Anderson è un regista che adesso tende molto a scegliersi bene le inquadrature, cioè che anche nel montaggio le tiene, tipo la scena appunto quella della chiesa, nonostante sia una scena che fa molto ridere, cioè nel senso non è una scena tipo dici ah wow, restiamo fermi perché voglio veramente darti, no? Questa impressione, questa angoscia, no, è una scena dove lei prende per il culo Lockjaw. Comunque la tiene un sacco, e non è che la tiene un sacco perché è come Nolan che ha 400 kg in macchina, cioè non è perché dice ah sono stanco, non voglio, capito? Sì, o devo spostarla, sono tipo 2 giorni di riprese in più e magari la finiamo adesso, ecco. Effettivamente non ci avevo pensato a sta cosa, ma tu hai detto la telecamera è diversa, cioè questo... Sì, è proprio tutto diverso, perché comunque un sensore che non è, cioè diciamo una pellicola che non è medio formato e usa lenti più piccole, è più piccola, la pellicola stessa è più piccola e quindi è più leggera. Ok. Però... Vabbè. Detto che in digitale comunque il medio formato lo tieni con una mano sola e vabbè. No, e l'altra cosa che volevo dire è il suo uso del nero, che non so se è lui o il suo direttore della fotografia, però insomma hanno deciso di fare... Non è Kubrick che ha fatto illuminazione naturale, fottetevi, e quello che non vedete non vedete, però ha deciso di tenere l'illuminazione reale. E quindi di nuovo quello che non vedete, cazzi vostri. Quindi ci sono per esempio delle scene iniziali che sono molto buie e lui ha detto vabbè, l'occhio umano non vede al buio, cazzi vostri, io la giro lo stesso al buio. E ci sta, cioè lo rispetto, nel senso è una buona scelta registica, è una scelta autoriale che è più significativa di uso l'IMAX perché c'ho il cazzo lungo. Cioè, è motivata. Vabbè, ok. No, vabbè, è lì che torna sempre. Cioè, deve essere, secondo me, almeno a mio parere, deve essere una scelta motivata da una decisione artistica. Cioè, deve esserci un motivo. Se in questo caso tu vuoi dare il motivo è non voglio usare le luci perché costano troppo, allora no. Se invece la tua scelta è voglio farlo al buio per dare un look reale, allora mi sembra un'ottima idea. Non mi ricordo se in Sinners lui l'aveva fatto per darti la sensazione di essere di cambio, più... di realtà, di essere in un altro contesto. In questo non so, no, non mi ha dato la sensazione troppo di, come posso dire, cioè non ne trovo il motivo nella, in quello che ho visto, sinceramente. Ma come magari un Hateful Eight, non lo no, so, però cioè... è poi in due scene, comunque il buio. Sì, cioè ce l'hai solo tipo quando lei esatto, quando lei entra dentro al coso e poi dopo mi sa verso metà. Vabbè, comunque no, è più il tutto, cioè tutto l'insieme, anche il look, come colori, è una roba che è data dalla sua pellicola, ok? Cioè lui non ha deciso di tenerla non perfetta. Ed è figo. È ovvio che, come succede in questi casi, la full experience è in un cinema a Los Angeles, in cui tutto pieno, in cui non puoi entrare, in cui la pellicola prende fuoco ogni volta, e quindi il comune mortale non può godersi il film come è stato pensato. È il problema di questa tecnologia. E vabbè, niente, basta. La smetto con Rent verso la pellicola. No, verso chi usa la pellicola senza motivo. Verso chi usa la pellicola senza motivo, ecco. Ah, va bene. Vabbè, niente. Non tu abbiamo qua. Avuto la compagnia di Andrea. E... gli chiederemo però, cosa pensa se arriva per il prossimo. Se mai arriverà. E niente, grazie di averci seguito, grazie Jacopo, e noi ci vediamo settimana prossima con un film strano. A settimana prossima, ciao ciao. Ciao.